l'amico è paragone con l'abbondanza. Io con la pancia vuota dando a te la pietanza. Del tatto migliore io prendo quello che avanza. Condivisione in stanza, incluso affetto fino all'alba. La tua infamata cosa da non pensare, come macchia d'inchiostro in un dipinto da rifare. Omicida da evitare, troppi soldi da prestare. Vigliaccheria gratuita, ma chi pensi di fregare? Sei come una bandiera, vai dove tira il vento. Troppi prestiti, dagli a banca andate in fallimento. Chiamate in corso, come sempre il cielo spento. E fatti ad uscire, ma adesso aspetti un momento. Chi trova un amico trova un tesoro, figo. Ma chi trova il tesoro se ne fotte dell'amico. Nel momento del bisogno non dona manco un sospiro. Vi becco in via centrale a farvi un giro. Amico, fammi rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle dame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame. Amico infame rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle tame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame. Io la ruota di scorta, mi chiedi se sono offesa. Amicizia per te la trovi nel Kinder sorpresa. Ricorda l'affetto non è di cioccolato. Riprova che con altri sarai più fortunato. Donato gioia per la tristezza, parole per portare saggezza, il bianco per trasmettervi purezza. Ma in fin dei conti non ho niente che mi resta. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Maledico ogni secondo e rancore lo tengo sveglio. Legame saldo quasi impossibile da infrangere. Forse sbagliavo a darti una spalla su cui piangere. Voglia di divertimento siete più fantasiosi. Il tuo amico è lo smile, alleati a giochi preziosi. C'è una fine per tutto perché niente è in eterno. Meglio soli che mal accompagnati, questo è certo. Amico fammi rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle tame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame. Amico infame rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle tame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame. Caro amico ti scrivo, usare la mia fiducia era il tuo obiettivo. Il tuo comportamento infame era il mio palliativo. Ruffiano senza volto, sono buono mica stolto, ho un ego vendicativo. Giocavi sopra il fatto che per te avrei fatto tutto, ma le tue riconoscenze è un fatto che mi fa di brutto. Se avrei bisogno ora resti all'asciutto. È inutile passare il tempo a riesumare quello che hai distrutto. Mi scaccia pensare a ciò che hai fatto, vigliacco. Hai fumato dal mio spliff, hai mangiato dal mio piatto, ma me ne sbatto. E sai che c'è, che Ber non si sbatte più per tipi come te, perché sei irriducibile. L'osco parassita sulla schiena della gente semplice e incredibile. Non aspettarti la mia diffidenza, violenza e irriverenza. Ti basti la mia fredda indifferenza. Amico infame rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle tame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame. Amico infame rompi trame, sputi su un compare che ti ha tirato fuori dalle tame. Fa come ti pare, ma pare che ti sia riservato odio nero catrame.